Allora, oltre a questo grazie, io dico anche a voi un grazie se avrete la bravura di rendere utile quest'ora di discussione. Io ho già accennato alcuni problemi che mi sono emersi improvvisamente alla lettura, all'ascolto delle due relazioni, recependole in profondità. Casomai ne ho tenuti conto degli altri per il mio bilancio finale. Adesso, per rendere propizio questo tempo, un'ora, l'introduzione sarà, direi, messa in atto dal carissimo nostro professor Costantino Cipolla, il quale appunto darà il via al nostro dibattito. Però prima vorrei ancora una volta declassare e svestire dalla veste di relatore Giuseppe Capraro, perché ci dia qualche informazione tecnica. Lo declasso, ecco, ma diventa un sociologo lo stesso. Certo, ecco, insomma, su quello che riguarda stasera, domani, per la messa. Sì, gli ospiti sono alloggiati all'Hotel Everest, Corso Alpini 14. È possibile arrivare in auto, ovviamente, nella cartella c'è anche una piantina di Trento, oppure in autobus, c'è un autobus numero 8 che parte proprio all'uscita qui a sinistra, vicino all'edicola dei giornali, e va in direzione nord, cioè verso il centro. Domani mattina alle 7:30 chi desidera può concelebrare alla chiesa di Cristo Re, che è appena 100 metri dall'Hotel Everest. 7:30 concelebrazione possibile. E quindi messa d'orario, però. La messa di orario, quindi essere puntuali. Teoricamente sono 24 i sacerdoti ospitati all'Hotel Everest, sono solo una decina di camici nella chiesa. Se qualcuno eventualmente, insomma, spero, potremo dire, ecco, che magari dal Duomo portino alcuni camici, oppure è possibile anche chi lo desidera concelebrare alle ore 8 messa di orario in Duomo. Ecco. Cena e colazione lì. Cena e colazione lì, il pranzo invece alla trattoria Piave, ristorante Piave qui. La colazione è disponibile alle 8. Dalle 8 in quarto, in modo che alle 9 noi possiamo cominciare. Esatto. Esauriti questi ragguagli tecnici, allora riprendiamo il nostro inserimento nel contenuto con l'aiuto e il sussidio del professor Cipolla. Grazie. Allora, intervenire a caldo su queste relazioni è ovviamente problematico. Le relazioni però che io ho potuto avere in anticipo, e quindi ho avuto modo di leggere in anticipo, sono relazioni sicuramente belle, serie, lavorate, organiche, ancorché molto diverse tra di loro, e non però per ragioni disciplinari. Sono diverse tra di loro in quanto impostano metodologicamente ed epistemologicamente, come secondo me avete potuto sentire, il problema. Ma l'incrocio, il tentativo, lo sforzo, la proposta di trovare dei posti alla sociologia e alla teologia a partire dai rispettivi punti di vista c'è, è stato fatto, è organizzato, eccetera. Ecco, devo dire che rispetto alla letteratura esistente mi sembra un passo avanti, perché c'è anche da dire, a parte quello che ho cercato io, che quello che citano gli autori in genere non è poi letteratura specifica che si occupi di questo, per cui probabilmente incontri ci sono stati tra sociologi e teologi, ma grande produzione che noi possiamo controllare e analizzare non ci deve essere, perché il buon nostro amico, mio caro amico, professor Capraro e i relatori ci hanno fatto vedere che in realtà quello che c'è è piuttosto scarso. Quindi direi anche che vi è dell'innovazione dentro, vi è un tentativo innovativo di cercare queste soluzioni. Questo lo è al di là dei risultati, perché le due proposte sono sicuramente innovative da questo punto di vista, ma lo è anche come fase storica lungo la quale si arriva ad affrontare un certo problema. Donati sostanzialmente, brutalizzo un po', insomma semplifico un po', dice: solo se la teologia diventerà relazionale sarà possibile e fecondo un vero confronto. Quindi un confronto tra sociologia e teologia è possibile dentro un approccio relazionale, l'estensione di un paradigma che nasce dentro la sociologia, che in qualche modo diventa utile per l'interpretazione dell'altro e soprattutto per un confronto. A questo Donati associa, secondo me, la centralità dell'opzione trinitaria. Donati dice esplicitamente di fare un discorso nell'ambito della teologia cattolica e con riferimento a questa dimensione, altrimenti evidentemente questo tipo di approccio potrebbe non stare in piedi. E va nel campo avverso, seppur per via meta, quando proporrà, accennerò brevemente, l'avete sentito, il famoso modello C dei tre proposti, è una meta, un qualcosa che sta al di fuori, che riflette su sociologia e teologia e che cerca a livello epistemologico di fornire un luogo di confronto. Privitera non segue questo schema. Privitera sostanzialmente parte dal presupposto che ognuna delle due discipline ha proprie specificità metodologiche e può dare qualche cosa all'altro. La teologia pascola, produce escatologicamente in maniera trascendentale, verticale, eccetera, lavora sui risultati della sociologia. La sociologia fornisce nella sua autonomia una serie di dati descrittivi utili per la teologia. E nessuna delle due, in questa loro diversità, può diventare etica. Ecco, questa è un'opzione che poi vedremo, secondo me, è problema, nel senso che vi è questa frattura, in qualche modo, tra queste due dimensioni dell'etica. Ma anche perché non posso parlare più di tanto, introdurre più di tanto, vorrei, dando per scontato che abbiate ritenuto le due relazioni, cosa che non è scontata perché le relazioni sono molto difficili e molto concettuali e probabilmente anche i passaggi che sono stati saltati sono ancora più difficili di quelli che sono stati detti, perché alcuni passaggi sono stati saltati e mi sono accorto che hanno anche in parte forse per esigenze diciamo di tempo in parte rendono più difficile la comprensione organica dei testi. I testi sono organici, sequenziali, non sono affatto materiali, sono relazioni complete. Questo ci tengo a dirlo perché è raro in questa funzione di commentatore di interventi critici trovare poi la possibilità di intervenire su un pensiero, seppur provvisorio, nel senso che non è ancora la stesura finale, ma già organico e compiuto. Allora, a Donati proporrò tre quesiti sostanzialmente, se ci riesco. Primo, Donati dice: passiamo dall'insegnare all'apprendere. Ecco, io dico, non ci può essere insegnare, ma questo mi colpisce un po', perché secondo me nell'ottica donatiana il suo concetto di relazione fa sì che in qualche modo, come dirà poi successivamente in vari luoghi della relazione, la distinzione è sempre relazionale, quindi insegnare ed apprendere in realtà, nella prospettiva anche donatiana, nella cui in realtà uno dovrebbe sempre in parte presupporre l'altro, come individuo società rimanda all'altro, non vedo perché qui il rovesciamento sia un rovesciamento per cui l'apprendere in qualche modo esclude l'insegnare. Io credo che siamo in presenza di un'ipotesi che potrei definire col suo linguaggio relazionale, in cui anche qui le due discipline non devono limitarsi ad apprendere dall'altra, ma a fornire qualcosa di se stesse anche dall'altra, secondo una logica di coproduzione, di integrazione nel senso di sintesi migliorativa delle rispettive produzioni. Altrimenti, a mio modo di vedere, si ricade nell'errore popperiano, il quale si limita a rovesciare il positivismo e per cui si arriva all'ipotesi, non so, che si apprende, non come si impara, non secondo la prospettiva positiva, cioè per puri rinforzi positivi, impara ad andare in macchina perché faccio tutte le curve giuste, Popper dice no, non è così, si impara solo perché si esce di strada, cioè dall'errore. Mi pare che, come in quel caso, anche in questo caso, insegnare ed apprendere siano due meccanismi che nello scambio tra le discipline vadano salvaguardati. Questo è un primo problema che pongo. Secondo problema, invece più delicato, Donati scrive a un certo punto: il confronto o è relazionale o non è. Allora, se questo essere relazionale sta per quel discorso che Donati sviluppa in più luoghi, per cui la distinzione presuppone poi la relazione, quindi un contributo di coproduzione tra l'uno e l'altro di ciò che viene distinto, e quindi mai un'ontologia del confine tra le due, allora dico, a me personalmente non fa problema. Ma se questo vuol dire che il confronto può essere solo dentro un monoparadigma, allora mi fa problema, perché il pluralismo è comunque la vita dentro la sociologia e in ogni luogo. E l'idea che solo un paradigma possa confrontarsi con un altro mi sembra, da questo punto di vista, problematico, e quindi è un problema che pongo alla vostra riflessione. Secondo punto, l'epistemologia relazionale trinitaria, che secondo me è un passaggio forte, cruciale, centrale. Donati aveva già ripreso nel suo testo fondativo di questo approccio teoria della teoria relazionale della società, in una nota intorno a pagina 60, me lo ricordo ancora, aveva già come dire, in nuce impostato il problema in una noticina, ma ovviamente qui viene sviluppato e portato alle estreme conseguenze. Io domando questo a Donati, non come uomo evidentemente, perché come uomo tutto è possibile, ma come sociologo. È legittimo e tecnicamente, concettualmente, professionalmente possibile per un sociologo spostare il problema dentro questa relazionalità che in fondo è trascendente? Mi pare un accenno, l'ha fatto anche una domanda che ha posto anche tangenzialmente, un problema che ha posto anche tangenzialmente Capraro. Ecco, è legittimo per un sociologo spingersi fino a questi livelli? La sociologia ha un suo posto rispetto al quale, col quale fare i conti, Previtera, no? In fondo la sociologia è questo, sa fare bene questo, impara a fare questo e poi non va oltre. In qualche modo non è porre la trascendenza prima dell'immanenza, o una trascendenza in qualche modo senza immanenza, e comunque rovesciare il primato che la teologia dovrebbe avere su queste dimensioni? Altro punto, il mistero fondamentale del cristianesimo, la Trinità, viene definita nei dizionari di teologia, quindi un luogo. E allora io mi pongo questo problema, ho avuto modo di riflettere su questo, di leggere poco, non è il mio campo, vi chiedo scusa della mia approssimazione. Il problema è questo, un problema dibattuto dalla teologia trinitaria in vari luoghi, in vari nei secoli, insomma, risolto in vari modi. E comunque che rimanda all'unità nella distinzione e alla distinzione nell'unità sostanzialmente, alla risoluzione di questa specie di ossimoro come fatto epistemologico di fondo. Allora il problema è questo, nella storia, diciamo, di questa posizione, se si assolutizza l'unità resta il monismo e si perde di vista la Trinità, la faccio breve, ripeto e chiedo scusa. Se assolutizzo le unità ho il famoso triteismo, no? Riportato in tutti i dizionari di teologia. Ma se assolutizzo le relazioni, cos'ho? Il dissolvimento delle unità dentro questo meccanismo? Perché se non è così, allora alla relazione devo associare qualcosa d'altro, non è sufficiente il paradigma relazionale. Perché comunque le essenze rimangono, che la chiamiamo, che le ipostasi o qualche altra cosa, comunque. D'altra parte, se accetto un principio di pericoresi o di compenetrazione, allora evidentemente ho il co, ho un rapporto, il paradigma diventa essenza relazione, non più solo paradigma relazionale, ma il confronto avviene a livello di essenza relazione, perché non posso più in qualche modo ipotizzare una forma di compenetrazione che non presuppone degli enti che si compenetrano e limitato alla relazione. Ma voglio sottolineare una cosa molto importante. La lettura che Donati fa dell'approccio hegeliano, che io condivido pienamente e per me in maniera, e questo è un apprendimento che trasmetto perché mi sembra un luogo di grande positività. Donati sposta adesso qui bisognerebbe rifare tutto il percorso, Donati lo sposta a più livelli, cita più cose, insomma io quindi non posso, e vi chiedo scusa, non ho capito se nella relazione è stato sviluppato qui, mi pare che sia stato un po' accennato, in parte saltato, quindi non so se è stato capito, però sostanzialmente Donati sposta il problema della sintesi finale non come evoluzione lineare, ma all'interno di una logica che è una logica per cui da una parte vi è la tesi, dall'altra vi è l'antitesi, ma la sintesi sta nel mezzo. Sostanzialmente vi è una sorta di approccio generativo. Questo mi è piaciuto molto perché risponde, secondo me, a un principio che in fondo è quello della vita, no? Noi abbiamo la sociologia in fondo è il due, è la vita, la necessità del due, no? Maschio, femmina, da questa necessità, da questa impossibilità, il due, la sociologia, vivere associati, eccetera, eccetera. Se fosse sufficiente l'uno a produrre la vita, non so cosa sarebbe, ma certamente. Allora capite che questo in fondo è un modo per leggere questo tipo di approccio, la sociologia, Hegel, comunque in questa rete di cose, di leggere sostanzialmente la vita secondo questo meccanismo, il due più la generazione di questo due, che non necessariamente quindi è un discorso di natura lineare, che comunque presuppone la generatività, la sinergia relazionale, l'immanenza della trascendenza e anche viceversa, e così via, questo quindi un supporto. E poi il problema del confronto. Qui ho una considerazione critica da fare. Donati dice che il confronto può venire al livello C, che io do per scontato. Il livello A è quello dell'osservazione della teologia, il livello B è quello dell'osservazione della sociologia. Il livello C è quello della metateoria, quello che sta fuori. Però Donati scrive, la teologia è observer dependent come la sociologia. Qui c'è, secondo me, problema. Io non utilizzo mai questo termine, perché non c'è sempre un'autonomia relativa in processi che presuppongono forme di relazione. Non vi è mai la dipendenza dell'osservato da colui che osserva. Vi è un'autonomia relativa anche nell'osservato, come vi è un'autonomia relativa da parte dell'osservatore. Per cui, in realtà, noi ci troviamo nella condizione per cui anche in questo caso l'esito di un'osservazione è sempre una produzione in parte di chi osserva, ma in parte di chi è osservato. Anche perché se non ci fosse questa reciproca autonomia non avremmo tolleranza conoscitiva, saremmo di fronte all'intolleranza. Uno domina l'altro. Questo valeva nel realismo, quando il soggetto doveva morire nell'oggetto, ma vale anche se io utilizzo il termine di observer dependent. Vi sono due autonomie relative all'interno delle quali. E questo vale anche per la metateoria che sta fuori, che è il C, perché anche questa in qualche modo sta sì fuori, ma in parte sta anche dentro. Non ci può essere ontologia di confine a questo livello, perché altrimenti c'è in tutti i livelli, altrimenti c'è anche laddove, alla fine, come dicevo, Donati dice, in fondo la distinzione relazionale tra individuo e società, quando io la introduco, presuppone che l'individuo è sempre un po' dentro la società e vi è sempre anche un po' fuori. Come la società è sempre un po' dentro l'individuo, vi è sempre un po' fuori. Ma questo principio epistemologico vale in tutte le categorie osservative e vale in tutti i rapporti tra teorie, vale in tutti i rapporti tra discipline. È un principio epistemologico che qui secondo me non viene ripreso, e per cui pongo questo problema a Donati. Poi salto alla parte finale, Privitera. La teologia è scienza, dice Privitera. Ora, dal mio punto di vista la teologia non è scienza. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che la verità è della scienza? Assolutamente no. Questo sarebbe becero positivismo che crediamo di avere superato, perlomeno dopo Popper, che ha riabilitato pienamente la metafisica e che ha riabilitato una serie di verità. Io personalmente ritengo che la verità appartenga nella vita come nel lavoro professionale, appartenga alla verifica empirica, razionale empirica, che è della scienza, alla razionalità come tale, che non ha bisogno di metodiche empiriche specifiche per affermare la sua verità, e alla irrazionalità, perché l'amore non è in qualche modo verità, anche se, voglio dire, mistica, anche se non razionale, non razionale, come tale, non razionalmente verificabile. E quindi in qualche modo esiste una verità filosofica, una verità teologica che ha una sua legittimazione, ha un suo posto, ha ognuno il suo posto, e in questa logica di interscambio ognuno porta la sua verità. E quindi da questo punto di vista dico, la teologia non è scienza, ma questa non è una diminuzione, è una elevazione, un ruolo diverso. Quante volte, in fondo, discutendo con i filosofi, i filosofi ci rimandano come ritorno il fatto che la vera verità ce l'hanno loro, noi ci occupiamo di cose, di dati modesti, dati empirici, la vera verità appartiene alla dimensione filosofica. Altro problema, ne ho ancora due poi finisco, quindi credo di stare nel tempo assegnato, il problema della valutatività e della neutralità. Avvalutatività è termine usato da Privitera, neutralità è termine usato da Donati. Dice Privitera, se ho riportato bene, se no chiedo scusa, ma insomma, ci correggiamo. Dice Privitera, pericolosa questa valutatività perché non permette più di utilizzare peccato, colpa, eccetera, eccetera, dove vanno a finire a un certo punto. Se noi in qualche modo a livello descrittivo, no, questa è stata una parte invece detta bene nel senso di riportata integralmente, no? Non di detta bene. Ecco, allora io dico, in qualche modo sono meno oggettivista forse di Privitera, nel senso che ritengo che l'ateismo per me è impossibile, la postulazione dell'ateismo metodologico è impossibile, uno fa ricerca, in qualche modo si porta dietro quello che c'ha e qualcosa deve fare, il solo fatto di fare una ricerca presuppone le selezioni che rimandano a valori, quindi relazioni ai valori e quindi un ritorno dei valori nell'ambito di qualsiasi attività che riguardi in qualche modo l'uomo. Siamo impastati di significati, di senso, agiamo per intenzionalità, l'idea che la scienza sociale si possa esonerare da queste commistioni impossibili. L'etica è impastata con la sociologia in n modi, in n dimensioni, e quindi in qualche modo ci torna sempre dentro. Il problema è che in qualche modo noi esplicitiamo, siamo costretti a esplicitare le scelte che facciamo, siamo costretti a darne conto, la scienza esiste in quanto pubblicità, altrimenti non ci sarebbero neanche i brevetti, altrimenti non ci sarebbero i confronti, altrimenti non saremmo qui a discutere. Quindi in qualche modo l'entrata dei valori dentro la sociologia è infinita. Se io dovessi fare un esempio di ricerca, qualsiasi esempio di ricerca potessi fare, qui fare, vedremmo insieme come la presenza nel ciclo metodologico dell'informazione scientifica, l'arrivo dei valori fin dall'inizio, dal momento del concepimento al momento della diffusione finale, è presente e in qualche modo si impasta in mille modi. Questo non vuol dire esprimere valutazioni come tali, che è una cosa diversa, vuol dire l'impossibilità di non assumere posizioni, che sia la stessa posizione di neutralità rispetto a un certo tema, ossia una posizione che parte da alcune premesse. Quindi da questo punto di vista non sarei così pessimista, nel senso di, secondo luogo, dice Privitera, teologia e sociologia non orientano la storia, perché una è escatologica e l'altra è esonerata dalla morale. Io personalmente credo che questo non sia vero, nel senso che non sia neanche in fondo possibile, perché quando parlo soprattutto da sociologo, da teologo non sarei, anche se ho visto che molti degli autori che sono stati riportati, citati, eccetera, molte letture incarnano di più la teologia, mi pare anche Sartori incarni molto di più la teologia nella storia e quindi la sua funzione di intervento nelle cose del mondo e di presa di posizione rispetto alle cose del mondo. Ma io dico, il fare sociologia, qualsiasi modo sia, anche se io faccio sondaggio politico e lo pubblico su un giornale e intenzionalmente non so cosa andrà a finire, questo condiziona l'opinione pubblica, se non altro perché viene veicolato secondo queste prospettive. Poi se lo faccio addirittura per utilizzarlo a fini interni, ammesso che questa sia scienza, nel senso che questa non ha pubblicità, ma insomma se fatta bene, se tenuta all'interno può essere assimilata a questo, questo addirittura è la strumentalizzazione del lavoro scientifico. Ma io dico che in qualche modo l'autoesonero del ricercatore è sempre difficile, io rovescio la prospettiva. Una volta si diceva, ma in fondo il sociologo deve essere estraneo, oggettivo e neutrale, dico che in qualche modo è quasi impossibile esserlo. Perché anche se si è neutrali si prende posizione su un tema quando le cose del mondo accadono e quindi si va a finire per influenzare quel flusso in maniera intenzionale o non intenzionale. Chiudo con due osservazioni brevissime. Allora, la sociologia e la teologia non sono nessuna delle due esperienze religiose, quindi in questo senso nessuna delle due fa confusa con l'esperienza religiosa. Quindi nessuna delle due in qualche modo può avere la verità ultima da questo punto di vista. Se sociologia e teologia non restano distinte, forse collegate metodologicamente e pluralisticamente, quindi se non vivono come due autonomie relative, l'una delle quali rimanda all'altra e ne ha bisogno rispetto ai temi che tratta, perché c'è questo filo che lega tutte le cose al di là della nostra volontà, c'è il rischio del fondamentalismo, che è un rischio che incombe e mi pare che sia stato ripreso, non so da chi è citato, non so da chi, ma non credo che sia una cosa così mia originale in questo momento, anche se personalmente la considero. E io credo poi che la sociologia almeno due compiti li abbia, due cose le debba trattare, perché se la sociologia non può essere una scienza che, vivendo in un mondo pieno di valori, poi precisamente dice ma e ognuno si farà le sue scelte da questo punto di vista. In fondo la relazione di Donati prende posizione in maniera precisa e secondo me giustamente su tutta una serie di temi. Io ne dico solo due dal mio punto di vista, per dire che in qualche modo non sarei così fuori. Dico, la tolleranza in una società sempre più multietnica, multiraziale, multireligiosa, multi, il problema dell'altro, del come trattare l'altro, mi pare che Donati introduca il concetto di empatia a un certo punto, portato in sociologia da Ardigò, ma il problema della tolleranza, di come trattare il rapporto con l'altro in chiave quotidiana, in chiave epistemologica, in qualsiasi chiave si voglia, in chiave teologica, eccetera, è un problema fondamentale. E quello della diseguaglianza tra gli uomini, che resta comunque problema non molto lontano da quello della tolleranza, ma cruciale. Allora è evidente che se tutto questo è vero, noi nell'affrontare questi temi, nel fare queste relazioni, non è che in qualche modo ci siamo esonerati dal problema del tempo, perché in fondo noi lavoriamo per il futuro e in fondo, da questo punto di vista, il futuro è l'essenza del tempo e l'essenza dell'impegno in questa direzione. E credo che queste due relazioni, pur non formalmente orientate sul problema del tempo, siano un contributo importantissimo e fondamentale in questa direzione. Grazie, professore. Grazie perché tra l'altro nello specchio delle sue osservazioni abbiamo capito meglio le due relazioni. E adesso io darei alla vostra voce lo spazio del tempo, sentite che bello, di almeno un quarto d'ora per poi restituire la parola ai due relatori per rispondere, intanto loro pensano alle granitiche osservazioni. Allora Groll, Giuriati, e chi c'era? E Boff e Di Lenge. Forza. Allora, Grolla. Diamogli la... Il microfono? Sì, quasi, quasi per intervallo, cantando un po' fuori del coro. Non sono un professionista e quindi insomma entro quasi come un Außenseiter un pochino in questa questione. Parlo però come uno che veramente dopo aver fatto tutta la teologia sistematica su manuali tipo bio, per intenderci, no? Ha dovuto rifondere il tutto in dimensione storica, l'impressione mia, con rispetto grandissimo verso la dotta esposizione che è stata fatta, è quella di quasi un'accentuazione eccessiva su aspetti che io, scusate il mio modo di esprimermi grezzo e paesano, un aspetto un po' concettualistico, un certo concettualismo che non mi è familiare proprio come teologo nella mia situazione odierna, no? Cioè, mi ricorre in tutto questo discorso il titolo di un libro famoso di Bieser, recente, che si intitola Die Glaubenswende, la svolta non della teologia per piacere, ma della fede. Quella svolta epocale di cui tu dicevi è svolta della fede, della fede. Attenti bene a non interpretarla male, attenti bene a non radicalizzarla, però anche attenti a non essere ciechi e non accorgersi. Cioè, se guardiamo alla domanda che qui anche nello schema affiora, che ne sarà domani del cristianesimo? La domanda che proprio dai sociologi continuamente viene portata avanti, ci sarà ancora una fede cristiana in un domani? Su questa pista io mi sento di risponderla, certamente non un cristianesimo di questo tipo. Questo tipo di cristianesimo certamente sta dentro la Glaubenswende. Molte cose verranno formulate diversamente, molte istituzioni verranno articolate diversamente e si devono articolare diversamente, no? Perché il cristianesimo sta, la fede cristiana sta dentro la storia, no? Ora, questa attenzione alla dimensione storica io gradirei di sentirla un po' di più. In realtà proviene, se passiamo anche dalla storia della teologia e ci liberiamo anche un po' da certi da certe eccessive cautele antimodernistiche. Io non abbraccio naturalmente gli eccessi del modernismo, però noi siamo in una posizione di difesa ufficiale contro la libertà, evidentemente è una delle caratteristiche dell'uomo, solo l'uomo libero è l'uomo, no? Ma quello che io voglio mettere in rilievo è che la libertà è nella relazione, cioè dobbiamo vederla nella relazione, ed è la relazione che rende liberi, questo è il problema. Perché finora la libertà noi l'abbiamo sempre vista come caratteristica dell'individuo, della coscienza isolata, del sistema psichico o del sistema biopsichico. Anche qui bisogna discutere tanto su queste cose, acqua viva e tutto il resto, ma in realtà non è così. C'è certamente la libertà della coscienza, evidentemente, ma questa salvaguardata è espressa dalla relazione, è attraverso la relazione che garantiamo la libertà, e se è così, questo significa che il senso della libertà sta nella relazione, pur essendo la coscienza soggetto di libertà, diciamo, depositaria, luogo della libertà, ma solo la relazione ci rende liberi. Se uno credesse di essere libero fuori dalla relazione, sbaglia, cioè non vive più, no? E allora è istruttivo questo fatto, questo per me come sociologo, cioè nel momento in cui lo riferisco alla realtà, poi il teologo dirà la sua nel suo dominio, no? Ecco perché non entro nel discorso dell'irriducibilità della fede trinitaria, questo è un discorso interno alla teologia, se sia cristologica, eccetera, questo avrei cose personali da dire, ma non lo dico perché sono, vorrei intervenire solo come sociologo. Allora, sotto questo aspetto, annotazione finale, e che mi pare, io non ho avuto il tempo per sviluppare questo, e quindi siamo, per così dire, anche nel tempo tutti fuori della possibilità di farlo, ma spero che si possa fare domani, cercare di capire se questo incontro ha un senso, questo, secondo me sta non nel parlare delle cose interne alla teologia, appunto se è Dio, Cristo, eccetera, o l'una o un'altra cosa, o interne ai sociologi, qui ce ne sono di meno, a valutatività, no, eccetera, all'interno della sociologia, qui il problema è di capire il confine, le cose che stanno sul confine fra teologia e sociologia. E allora, secondo me, bisognerebbe mettere maggiore attenzione sulla vita quotidiana, sulle relazioni della vita quotidiana, su cosa significa per la teologia e per la sociologia parlare di religiosità del quotidiano, delle relazioni quotidiane. Cos'è religiosità nel lavoro, come concepito come relazioni sociali? Che cosa c'è di religiosità nel rapporto fra i sessi, nel matrimonio, nella relazione fra le generazioni, nel vivere, nell'abitare, nell'esprimere qualunque relazione di vita quotidiana? E quindi poi le forme sociali che nascono da questo, eccetera. Che cosa c'è di religioso? Allora, secondo me, fermo restando la diversità, l'autonomia delle due discipline, dei due campi, eccetera, è su questo confine che dobbiamo interrogarci per capire se possiamo aprire una strada che ci consente di arricchirci, cioè di istruirci reciprocamente senza confonderci, senza separarci. Ecco perché ero partito dall'idea che invece oggi, secondo me, è la separazione che è un problema, e la separazione nel momento in cui si identifica la sociologia con la pura immanenza e la teologia con un oggetto puramente trascendente. E è su questo che bisognerebbe cercare un poco di andare avanti. Grazie. Grazie a lei. Allora, io avevo cominciato oggi dichiarando che non è la prima volta che si incontrano sociologi e teologi, e ho citato, come ha citato Don Giuliati, altre esperienze, ma dopo questa prima mezza giornata ho l'impressione che è come se fosse la prima volta, cioè che di nuovo stiamo sperimentando la divaricazione, la diversità di linguaggi, di impostazioni. E soprattutto perché ognuno di voi, di noi, è più culturizzato man mano che passano gli anni, e ognuno venendo qui dice: io avrei fatto il discorso così, io avrei impostato così, io amo più un discorso positivo, io amo più un discorso speculativo, io vorrei più metodologia, io vorrei trattato, eccetera. Ognuno di noi ormai ha esemplificato sociologicamente ciò che sarà la società di domani, pluralistica. Però mi sembra che, mentre prima ho elogiato il tentativo fatto da Donati di trovare un terreno comune, e anche lui adesso ha sviluppato, che anche lui aveva l'intenzione e ha espresso il tentativo di trovare un terreno comune, mi è piaciuta la battuta finale, anche l'ultima, che fa convergere verso l'uomo comune per diventare comuni. la vita, ma soprattutto la prima, che ha detto prima, che a me piace moltissimo come ecumenicamente. Quando diciamo parola metodo, metodologia, dobbiamo intendere prima di tutto la mens di apertura all'altro, di entrare in una simpatia con l'altro, di capire gli altri discorsi mentre li ascoltiamo, non mentre li ascoltiamo dire ma io avrei da dire così, fare uno sforzo ecumenico di dilatare il nostro, altrimenti restiamo chiusissimi. Io accetto moltissimo, mi ricordo quando ho fatto metodologia teologica, adoperavo i libri di Jean Guiton e di altri che parlavano più che del metodo tecnico, del metodo come mens, l'apertura agli altri. Ecco il discorso che io ritengo importantissimo, di una mens di apertura all'altro per capirlo e prima ascoltarlo, come ha detto lui, da discepolo, per poi integrarlo. Verrà dopo, io tutte le cose che ho sentito oggi le sento come antitetiche dentro di me, però le metto lì, le tengo lì, perché devono diventare poi nutrimento di una coordinazione vitale che verrà dopo. Buona cena.